l'alba si accasciò, stanca, di luna inversa, persa, come una principessa dal volto stanco. E il suo re le resse il capo, e dalla sue labbra il sapore, il dolore sparì in ore, in fiore di liquore, la festa, la gioia, la nostra nuova gloria. La festa, la gioia, la nostra nuova gloria. La festa, la gioia, la nostra nuova gloria. Fiorirono giardino di lacrime, ora liriche, bucoliche, di nuove chiare pagine metriche. E le distesa in arabeschi di sogni, in echi or capiti, i ricordi lieti or men digiuni, ripeti con me. Vero, non ci lasceremo, ripete io, neanche se l'impossibile di un drago nero. E lei si perse nei suoi occhi verdi d'amore vissero veri e felici, di sogni fieramente veraci di bacio.